Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 4. Gli apostoli arrestati e disaminati sopra la guarigione del zoppo dimostrano che nel solo Gesù Cristo pietra angolare è salute, né ubbidiscono ai principi contro il comando di Dio, né cessano di predicare il nome di Cristo. Liberati stando in orazione ricevono nuovi segni dello Spirito Santo. Niuno dei cristiani aveva cosa alcuna in proprio, ma, venduto il suo, metteva tutto in comune, come fece Barnaba, venduto un podere. Ma mentre essi parlavano al popolo, sopraggiunsero i sacerdoti, e il magistrato del Tempio, e i Sadducei, i quali non potevano patire che istruissero il popolo, e annunziassero in Gesù la risurrezione da morte. E misero loro le mani addosso, e li fecero custodire pel di seguente, perché era già sera. Molti però di coloro che udito avevano quel sermone, credettero, e furono in numero di circa 5.000 uomini. Il di seguente si adunarono i loro caporioni, e i signori, e gli scribi in Gerusalemme, e Anna principe dei sacerdoti, e Caifa, e Giovanni, e Alessandro, e quanti erano della stirpe sacerdotale. E fattili venire alla loro presenza, gli interrogavano, con qual podestà, o in nome di chi avete voi fatto questo? Allor Pietro ripieno di Spirito Santo, disse loro, principi del popolo, e signori, udite, giacché noi in quest'oggi sopra l'aver fatto bene ad un uomo ammalato siamo disaminati, in qual modo questi sia stato risanato, sia noto a tutti voi, e a tutto il popolo d'Israele, come nel nome del Signor nostro Gesù Cristo Nazareno da voi crocifisso, cui Dio risuscitò da morte in questo nome costui si sta dinanzi a voi sano. Questa è la pietra rigettata da voi, che fabbricate, la quale è divenuta testata dell'angolo, né in alcun altro è salute. Impero che non avvi sotto del cielo altro nome dato agli uomini, mercé di cui abbiamo noi ad essere salvati. Vedendo quelli la costanza di Pietro e di Giovanni, sapendo per certo che erano uomini senza lettere e idioti, si meravigliavano e li riconoscevano che erano quei che erano stati con Gesù, e osservando stante in piedi con essi quell'uomo che era stato guarito, non potevano dire nulla in contrario. Ordinaron però che si ritirassero fuori dell'adunanza, e facevan consulta tra di loro, dicendo, che farem noi di costoro? Conciò sia che un miracolo illustre è stato fatto da essi, noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, né possiamo noi negarlo. Ma affinché non si divolghi maggiormente tra il popolo, con gravi minacce proibiamo loro che non parlino più di questo nome con alcun nome. E chiamatigli, intimaron loro, che in nessun modo parlassero, ne insegnassero nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni risposero, e disser loro, se sia giusto dinanzi a Dio l'ubbidire piuttosto a voi, che a Dio, giudicatelo voi, impero che non possiamo non parlare di quelle cose, che abbiamo vedute, e udite. Ma quelli minacciatili, gli rimandarono, non trovando il modo di castigarli rispetto al popolo, perché tutti celebravano quello, che era avvenuto. Impero che aveva più di 40 anni quell'uomo, sopra di cui era stata operata quella miracolosa guarigione. Ed egli no posti in libertà se andarono da suoi, e fecer loro parte di quanto aveanli detto i principi dei sacerdoti, e di signori. E quelli udito ciò, alzarono concordemente la voce a Dio, e dissero, Signore tu sei, che facesti il cielo, e la terra, il mare, e tutte le cose che sono in essi, il quale, parlando lo Spirito Santo per bocca di Davide Padre nostro, tuo servo, dicesti, per qual motivo tumultuaron le genti, e i popoli si sono prese inutili cure. Si fecero innanzi i regi della terra, e i principi si adunarono insieme contro il Signore, e contro il suo Cristo? Impero che veramente si unirono in questa città contro il santo tuo figliuolo Gesù Cristo, unto da te, ed Erode, e Ponzio Pilato con le genti, e con i popoli di Israele. Per fare quello che la tua mano e il tuo consiglio preordinò che si facesse. E adesso, o Signore, rifletti alle loro minacce e concedi a servi tuoi di parlare con tutta fidanza la tua parola, stendendo la tua mano a risanare e ad operar segni e miracoli per mezzo del nome del suo santo figliuolo Gesù. E fatta che ebber questa orazione, si scosse il luogo dove stavano adunati, e furono tutti ripieni di Spirito Santo, e parlavano con fidanza la parola di Dio. E la moltitudine dei credenti era un sol cuore, e un'anima sola, né vu era chi delle cose che possedeva, alcuna dicesse esser sua, ma tutto era tra essi comune. E con efficacia grande rendevano gli apostoli testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo Signor nostro, grande era in tutti loro la grazia. E non vi era alcun bisognoso tra loro, mentre tutti coloro che possedevano terreni o case li vendevano, e portavano il prezzo delle cose vendute, e lo deponevano a piedi degli apostoli. E si distribuiva a ciascheduno secondo il suo bisogno. E Giuseppe, soprannominato Barnaba dagli apostoli Levita, nativo di Cipro, avendo un podere, lo vendé, e portò il prezzo, e lo posò a piedi degli apostoli. Note, 4,2, non poterán patire, che annunziassero in Gesù la risurrezione. Ciò vuol si intendere dei Sadducei, i quali negavano questo mistero. E perciò si riscaldavano più degli altri contro gli apostoli, non solo per l'odio che portavano a Cristo e a suoi discepoli, ma ancora per l'impegno di sostenere la propria dottrina e reputazione contro dei farisei, i quali avrebbero trionfato quando la risurrezione fosse stata stabilita con un esempio tanto recente e tanto illustre. 4,3. E li fecero custodire i ci. Li fecero arrestare e guardare a vista senza metterli in prigione. Così il Signore andava avvezzando a poco i suoi discepoli a portare la loro croce. 4,4. Circa 5.000 uomini e ci. Tutti questi furono convertiti al secondo sermone di Pietro, e in questo numero non si includono le donne e i fanciulli. 4,5. Si adunarono in Gerusalemme. Così ci fa intendere esse, Luca, che furono chiamati e fatti venire a questo straordinario consiglio anche le persone di autorità e dottrina, che erano fuori di città, affinché più solenne e rispettabile fosse l'adunanza. 4,6. E Anna principe dei sacerdoti, e Caifa. Anna era stato sommo pontefice, e forse ne riteneva il nome, perché sotto il pontificate del genero Caifa aveva egli tutta l'autorità. E Giovanni, e Alessandro. Di questi fa menzione Giuseppe ebreo de Bello Giude. 2,25. E Antic. 20,3. E quanti erano della stirpe sacerdotale? Può intendersi dei fratelli e dei prossimi parenti dei sommi pontefici, i quali fossero stati esauriti al Gran Sinedrio. 4,7. Con qual podestà, o in nome di chi ci vale a dire, agite voi o con autorità di profeti nel nome di Dio, o per parte, e virtù di magia nel nome del demonio? L'uno e l'altro di questi casi erano di ispezione del Sinedrio. 4,12. Non avvi sotto del cielo altro nome eci. Non vuo né patriarca, né profeta, né sacerdote, né re, né altro nome sopra la terra, dal quale secondo gli ordini della provvidenza divina possano gli uomini conseguir vita e salute. 4,16. Che farem noi di costoro? Queste parole dimostrano che questi giudici sentivano interiormente la forza della verità, ma in cambio di cedere e abbracciarla, per una orribile cecità si ostinano a cercare dei mezzi per opporsi a progressi che ella andava facendo nel popolo. 4,19. Se sia giusto dinanzi a Dio e ci. Tale è stata in ogni tempo la dottrina dei veri discepoli di Gesù Cristo. Il gran vescovo e martire S. Policarpo perciò diceva: abbiamo imparato a rendere alle podestà ordinate da Dio quell'onore che si conviene e che non si oppone alla nostra salute. 4,20. Non possiamo non parlare e ci avendoci Gesù ordinato di rendere testimonianza di quello che abbiamo udito e veduto, non è lecito a noi di tacere per paura degli uomini. 4,22. Aveva più di 40 anni quell'uomo. Era di un'età che rendeva più difficile la guarigione, e più evidente e innegabile il miracolo. 4,27. Unto da te. Qual profeta, e sacerdote, e re di tutte le genti. Con i popoli di Israele. Le diverse tribù di Israele sono più volte considerate nella scrittura come tanti distinti popoli. Vedi gennaio 28. 3, XVI. 4, 4,28, per fare quello che la tua mano preordinò. Per eseguire gli ordini della onnipotente tua volontà, la quale ordinò la morte di Cristo a salute di tutte le genti. Senza né volere, né ordinare il peccato degli ebrei, e di Ponzio Pilato, la provvidenza divina si servì della ingiustizia dei nemici del Salvatore ad eseguire per mano di essi le altissime disposizioni della sua misericordia. 4,31. Si scosse il luogo dove stavano. Questo scotimento era segno della efficacia e virtù grande, con la quale Dio avrebbe scossa e agitata tutta la terra alla predication del Vangelo, conforme era stato predetto dal profeta Ageo, capitolo 8. 7. Ancora una volta, e io scuoterò non solamente la terra, ma anche il cielo. 4,32. Un sol cuore, e un'anima sola. Vero e grandioso carattere dei veri discepoli di Cristo. A questo carattere debbono essere riconosciuti dal mondo, secondo la parola del Salvatore, Gio. 13,35. Unione di sentimento nella stessa fede, unione di cuori nella mutua carità. 4,33. E grande era in tutti loro la grazia. Risplendeva e nelle parole, e nelle opere di tutti la celeste grazia, della quale erano ripieni. 4,36. Levita, nativo di Cipro. Vale a dire, della tribù di Levi, benché nato nell'isola di Cipro, ovvero di genitori, che facevano l'ordinaria loro dimora in quell'isola. Imperocché gli ebrei erano sparsi per tutto il mondo. È però da credersi che Barnaba fosse stato e allevato e istruito nelle sacre lettere in Gerusalemme, come Saulo nativo di Tarso. 4,37. Avendo un podere, lo vendè, eci. I Leviti non potevano possedere stabili nella terra di Canaan secondo la legge, Num. 18:20. Alcuni perciò sono di sentimento che questo stabile fosse venuto a Barnaba per eredità della moglie. E questo parmi lo scioglimento più probabile.